30 siti numero 1924, proveniente dalla stazione di Messina Centrale, diretto a Roma Termini delle ore 7:23, in partenza dal binario numero 7. Omar viene dal Marocco con un blocco dentro l'anima. Si trova tra gente che è indifferente o che l'esamina. Un pensiero come lamina tagliente per la mente. Lui si crede diffidente di fronte ad ogni persona. Sopra un treno che si anima dentro la sua carrozza. Vedo una ragazza seduta su una poltrona. Lo fissa nella faccia come fosse una minaccia. Come se desse la caccia ad una traccia che funziona. Omar si chiede: e se questa fosse un agente? Io non ho passaporto, non mi assunto il dirigente. Crede sia un tenente con in tasca il distintivo. Ma la tipa non fa niente, neanche il gesto più istintivo. Forse lei lo guardava per avere la sua attenzione, per un senso di attrazione, una funzione sessuale. Lui pensa che sia solo un ispettore del lavoro, che controlla ogni more, che di ogni straniere è rivale. Il sano clima Omar crea solo tensione. Non gli resta che scappare o cercarsi un altro vagone. Della pura poca stima e già conosce la prigione. Decide di fuggire nella prossima stazione. Vedi qui tutta questa diffidenza. Credici a come genera violenza. Guardami, cerco solo fratellanza. Qui troppa sudditanza, crea disuguaglianza. Vedi qui tutta questa diffidenza. Credici a come genera violenza. Guardami, cerco solo fratellanza. Qui troppa sudditanza, crea disuguaglianza. Marina era seduta e tranquillamente viaggiava. Da un sedile più distante uno straniero la fissava. La guardava intensamente come se avesse un quesito da proporre, da dirle. In silenzio urlava più di un grido, le pensava: cos'è questo da guardarmi in questo modo? Non capiva che era onesto, diffidava perché ignoto. Inizia a immaginare che lui fosse un terrorista con tanto di testa guasta, un estremista talebano che voleva far esplodere il vagone col tritolo solo per il suo colore. Lei lo scambia per afgano. Inizia a pensare che possa farle del male, che voglia farle di tutto pure violenza sessuale. Ma il tutto equivale soltanto alle sue congetture, che non hanno più misure ma paure verso un tale, il quale uguale a tutto il resto della massa. Però tutto il resto non è scuro e non la fissa. L'insano clima Marina crea la tensione. Non le resta che scappare o cercarsi un altro vagone. Della gente a poca stima e la paura le rimane. Decide di aspettare ormai la prossima stazione. Vedi qui tutta questa diffidenza. Credici a come genera